ad alta voce. Monica Piseddu legge Il gioco dei regni di Clara Sereni. Prima puntata. Quando avvertiva che la sventura stava per abbattersi sul suo popolo, il Baal Shem Tov usava ritirarsi in raccoglimento in un dato punto del bosco. Ivi giunto, accendeva un fuoco e recitava al cielo una sua preghiera, e il miracolo si compiva, e la sventura era scongiurata. Gli anni passarono, e toccò al suo discepolo, il Megid di Meserich, intervenire per scongiurare le sventure che via via minacciose si profilavano. In quei momenti il Megid si recava nel bosco e diceva: «Signore del cielo, prestami ascolto. Come vada acceso il fuoco non lo so, nessuno me lo ha insegnato oppure l'ho dimenticato. Però la preghiera sono ancora capace di recitarla e credo che basterà». E il miracolo si compiva. Gli anni passarono, nubi cariche di sventura si addensavano. Dal suo ritiro nascosto nel bosco, Rabbi Moshe Leib di Sassov diceva: «Non so come vada acceso il fuoco, non conosco la preghiera, perché nessuno mi ha insegnato il modo e le parole, oppure perché io stesso li ho dimenticati. Però il luogo so come trovarlo, e forse basterà». E ancora il miracolo si compiva. Poi toccò a Rabbi Israel di Ruzhin scongiurare le minacce che incombevano sul suo popolo. Seduto su un pancaccio, si prese il capo fra le mani e mormorò: «Non so come vada acceso il fuoco, non conosco la preghiera, non so più trovare quel punto nel bosco. Niente di tutto questo so. Nessuno me l'ha insegnato oppure l'ho dimenticato. Tutto quel che so fare è tener viva la memoria di questa storia. Basterà». Con il fagotto che le ingombrava le braccia, la serva Dalinda restava indietro, impegnata in saluti a parenti e a tanti che conosceva. Alfonsa entrò in una porticina, salutò e fu salutata. Dalinda la raggiunse con l'involto. Discussero con l'artigiano di tipi, modelli e misure. Lui mostrò materassi già confezionati e poi le stoffe, perché Alfonsa scegliesse a proprio gusto. Lei sorrise dentro, riconoscendo sulle cimose il marchio della fabbrica di suo padre. Poi esibì la pezza che Dalinda aveva srotolato, appena ruvida, resistente, per molti materassi, per molti figli. Il materassaio ne riconobbe la qualità superiore, il marchio era, si intende, lo stesso. Si inchinò, la ossequiò. Di nuovo nel vicolo, fra gli scoli putridi delle case, la nausea la prese alla gola. L'avevano educata alla forza e allo spettacolo della povertà aveva dovuto avvezzarsi presto. Il disagio che l'assediava aveva altre cause, ma non voleva coprirsi il naso né mostrare in alcun modo il fastidio che provava. Soltanto accelerò il passo, con la mente ai cuscini della carrozza, insofferente, distratta, impacciata dagli abiti tutti nuovi del corredo. L'unica cosa di cui Alfonsa fosse acutamente consapevole era il suo ventre, quella zona calda dove, ancora invisibile, stava crescendo una vita nuova. Il vicolo era immerso ormai in un'oscurità quasi completa. Le donne avevano messo le sedie fuori delle case e parlavano a non finire. Il brusio si alzava sul ghetto come una nuvola di polvere. E ancora la serva restava indietro, persa in sue chiacchiere che la irritavano. Alfonsa voleva soltanto andar via, ritrovare la sua casa salubre e bene arredata, dove l'accento toscano si mescolava con la parlata dei padri fino a coprirla, fino a renderla armoniosa e dimenticabile. Si voltò per far fretta a Dalinda e inciampò. Per un attimo perse l'equilibrio. Preoccupata del suo grembo, cercò un appiglio. La sua mano incontrò una giara di coccio. un'oscillazione, due, tre, la giara è in terra, sfasciata. Un uscio oscuro vomita urli, un grumo di furore contro la noncuranza dei ricchi. Nella luce fumosa di una lampada, il viso sciupato e incattivito di una vecchia. La proprietaria della giara si china a terra a constatare il danno. Le olive che doveva vendere, tutte sparse nella sporcizia, irrecuperabili. Alfonsa, confusa ed estranea. La serva, più pronta, offre scuse e denaro. Gli occhi della vecchia scintillano di rancore. Prende i soldi con un gesto rabbioso, poi senza rassegnazione si lascia andare sul gradino sporco e sibila: «Che i tuoi figli crescano come grano al sole». Frastornata, Alfonsa vorrebbe ringraziarla per quella che le sembra una benedizione. Ma ora le donne del vicolo circondano la vecchia, solidali, e per un'intrusa come lei non c'è spazio. E Dalinda la spinge via, con un'agitazione e una fretta che la infastidiscono. Le sembrano eccessive. «Te calle min meru hainaran», mormora la serva, affrettandosi verso la carrozza. Alfonsa riconosce lo scongiuro, non ne capisce la ragione, non ha curiosità di scoprirla. «Yommer Adonai vaya via Satan». «Ditelo anche voi, signora», supplica Dalinda pressante, e intanto fa certi suoi gesti. «Ripetete, ripetete con me». Per quanto persuasa a rispettare gli inferiori, Alfonsa non può reprimere un gesto di fastidio. Le vecchie superstizioni non hanno avuto diritto di cittadinanza in casa di suo padre, né l'avranno nella sua. E poi perché irritarsi di quella frase, gentile, seppure proferita in tono non benevolo? La serva insiste nella complicità. Di fronte al silenzio freddo della padrona, recita comunque una benedizione. «Per tutti i figli che nasceranno e perché i figli di Israele trionfino infine dei loro nemici». Il cocchiere le aiuta a salire in carrozza e ancora la donna intreccia scongiuri. Alfonsa guarda le strade, la gente, il traffico intenso della grande città, distratta da pensieri e desideri. La nostalgia di Pisa che a tratti la prende, la consolazione della servetta cattolica che dalla casa paterna ha scelto per sé, sfrontata e ridente, così diversa da questa vecchia ebrea superstiziosa con la quale ora deve imparare a misurarsi. Ma subito la memoria dei discorsi terribili, la necessità di difendersi, i catecumeni, si ammonì. E l'odore del pericolo le fu addosso, un'ombra nera che a Pisa si erano potuti permettere di dimenticare. E invece questa era Roma, la Roma del ghetto dei preti e del Papa, minacciosa e segreta anche adesso, malgrado il re. Con convinzione rinnovata, Alfonsa blandì la serva, la coinvolse in pareri domestici, le chiese opinioni e consigli, insomma, poco a poco la placò. Senza abbassarsi, però, lei padrona, a chiedere ragione di quelle formule di scongiuro che comunque non potevano appartenerle. Sabato, le 2 del pomeriggio. Ci aspettavamo un aiuto da parte degli operai, ma l'aiuto non arriva perché la polizia ferma chiunque tenti di avvicinarsi all'università. Decidiamo di proseguire l'occupazione dell'università fino all'indomani, domenica, sperando in una grande manifestazione operaia di sostegno. Ci organizziamo alla meglio. Un docente che alloggia all'interno dell'università ci porta da mangiare tutto quel che ha in casa, un po' di pane, formaggio e salame. La memoria mi restituisce intatta la mia immagine di allora. Una ragazza magra, con gli occhi brillanti e una lunga treccia scura, blusa rossa e cappello di astrakhan grigio. Il mio intervento fu accolto da grandi applausi e acclamazioni di saluto. La notte cantiamo. Verso le 3 del mattino un grido. «Arrivano i soldati!» Dalle finestre vediamo le guardie a cavallo che entrano nel cortile. Un ufficiale viene a consegnarci l'ultimatum: sgomberare immediatamente l'università, oppure interverranno con la forza. Riuniti in un'unica aula stipata, sentiamo che le porte vengono abbattute. Passi pesanti di soldati, urla e i conquistatori irrompono nell'aula in cui ci troviamo. Ci portano fuori. Camminiamo fra due ali di gendarmi e soldati armati. Camminiamo per le strade deserte e due ore dopo, allo spuntar dell'alba, arriviamo alla prigione Butyrska. Ci portano tutti in un grande stanzone sporco. Ci contano, compilano gli elenchi. Le ragazze, le corsiste, vengono separate dagli altri e riunite in una grande cella grigia, sporca, con le ragnatele sulle finestre chiuse dalle grate. Una serie di letti in ferro con sopra sacconi di paglia. Niente coperte, né cuscini, né biancheria. Più tardi scopriremo che la cella è anche piena di cimici. Cominciamo ad organizzarci. In quel periodo alla Butyrska eravamo almeno 2000, fra studenti e corsiste. E poi c'erano i detenuti politici, intellettuali e operai destinati alla deportazione in Siberia. Sia noi detenuti che i nostri compagni rimasti fuori ci chiedevamo: come mai Mosca non interviene? Perché nessuno viene a liberarci? Perché la popolazione non fa niente? Perché non assalta la prigione e libera gli studenti? Niente di tutto questo accadde, perché quello non era affatto l'inizio della rivoluzione, perché i tempi non erano maturi. Siamo tutti rinchiusi nelle celle, discutiamo, parliamo delle possibili azioni da fare, scegliamo di protestare, di chiedere o la liberazione o la condanna. Ma quale forma far assumere alla nostra protesta? Finalmente decidiamo: lo sciopero della fame. I detenuti politici più grandi di noi e più esperti tentano di dissuaderci, ci spiegano i rischi dell'azione che vogliamo intraprendere, le possibili conseguenze per la nostra salute, esprimono dubbi sulla nostra capacità di resistere. Alla fine si decide: non toccheremo più cibo. Allo sciopero della fame aderiscono quasi 2000 persone. La notizia varca rapidamente le mura della prigione, si diffonde in città. La preoccupazione di parenti e amici cresce di ora in ora, soprattutto quando vengono a sapere che rifiutiamo non solo il rancio della prigione, ma anche tutti i pacchi, le visite e la corrispondenza. Il nostro legame con l'esterno è completamente interrotto. I compagni più anziani ci consigliano di non disperdere le energie, di non parlare, non cantare, non muoverci. Invece noi siamo euforici, eccitati, cantiamo, parliamo, discutiamo. Al terzo giorno la fame comincia a farsi sentire e la debolezza. Il quarto giorno lo ricordo come il più difficile. Alcune cominciano a cedere, scene isteriche, svenimenti, l'organismo già indebolito dalla permanenza in prigione, senza aria né moto, non riesce a resistere alla fame e alla tensione nervosa. E c'è un'altra cosa: anche la nostra volontà è indebolita e non sostiene il corpo a sufficienza. Ci sono momenti nella vita in cui bisogna agire d'istinto. Quel momento arriva anche per me. Mi avvicino alla porta della cella, comincio a bussare, chiedo un colloquio con il direttore del carcere. Le gambe quasi non mi reggono, ma cerco di camminare in fretta e diritta. Devo resistere. Finalmente mi introducono nell'ufficio del direttore del carcere, che è assente. Mi riceve il suo aiutante, un signore biondo di mezza età, cortese e riservato. Con pazienza e attenzione ascolta tutto quello che gli dico. Gli racconto quello che sta succedendo nelle celle delle ragazze e chiedo che si chiami un medico. Al mio ritorno in cella vedo le ragazze già più tranquille, come sempre avviene quando si fa qualcosa di concreto. La sera, sul tardi, arriva il medico. Visita alcune di loro e le più deperite vengono trasferite in infermeria. L'idea che i deboli non siano più fra noi mi dà sollievo. Passano altri 4 o 5 giorni, in tutto 8 o 9. Alla fame ormai siamo abituati. Siamo deboli, ma sopportiamo l'assenza di cibo quasi tranquillamente. Lo sciopero della fame si conclude quando cominciano i trasferimenti di gruppi di studenti verso altre prigioni o verso il confino, con condanne dai 2 ai 5 anni. 6 o 7 ragazze vengono trasferite nella torre della prigione, dotata di celle singole. Io sono fra queste. Non avevo ancora raggiunto la maggiore età. I parenti consigliarono a mio padre di chiedere che mi fossero concessi gli arresti domiciliari, ma mio padre aveva troppo rispetto per me per farlo senza il mio consenso. Nella torre finalmente posso riposare, posso raccogliere le forze. Anche il cibo è diverso e migliore. Possiamo anche ordinare qualcosa all'esterno. Ora ci trattano da detenuti politici, con un misto di rispetto e timore. Una sera dopo il controllo, il sorvegliante ci dice di tenerci pronte. È chiaro che stiamo per partire. Vengono a prenderci di notte. In gran segreto ci trasferiscono alla stazione ferroviaria. Ci caricano su vagoni merci. Destinazione Siberia. Nella sala d'attesa non c'era ormai che l'infermiera, occupata nel riordino di schede e provette. Samuele si tolse il camice, si pettinò, si spazzolò i baffi e il pizzetto, si infilò la giacca. Nella strada che faceva per tornarsene a casa incontrò una parata militare. Lo stato ancora giovane si pavoneggiava davanti alle nazioni. I soldati marciavano a ranghi serrati, occupavano la strada da un marciapiede all'altro e non c'era verso di passare. Addossata a un angolo, una bambina piangeva, spaventata dal rumore e dall'impossibilità di tornarsene a casa. Samuele la consolò, la prese per mano. «Vieni con me», le disse. Si avviò con lei verso un ufficiale che dall'alto del suo cavallo governava la situazione. «Mi faccia passare», gli disse con fermezza. «Sono il dottor Sereni». L'altro quel cognome non l'aveva mai sentito, però il tono risoluto lo impressionò. Così prima portò la mano deferente al cappello e poi diede l'alta alla truppa. I tamburi minacciosi e solenni non smisero di rullare. Chiusi e anonimi nelle loro divise, i soldati segnavano il passo, un breve muro compatto di armi e galloni. Tenendo stretta la mano della bambina, Samuele accennò appena a toccarsi il cappello, poi deciso, gli occhi alti davanti a sé, attraversò la strada. E le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra, disse serio alla bambina quando giunsero in salvo sull'altro marciapiede. Sottolineò con un gesto la solennità della citazione. La bambina lo guardava stupita e, conquistata, gli sorrise, fece un piccolo inchino e scappò via. Giocherellando con il bastone da passeggio, Samuele si avviò a compiere l'ultimo tratto di strada che lo separava da casa. La servetta Finimola venne ad aprirgli la porta e poi la chiuse in fretta alle sue spalle. A malapena lo salutò e intanto ripassava con il panno di lana pomelli e maniglie, la catenella di metallo che fungeva da sicurezza e perfino il nottolino, la linguetta d'ottone che nessuno avrebbe notato, ma l'Eterno, benedetto egli sia, lui forse sì. E soprattutto avrebbe potuto accorgersene da Linda, sempre pronta a sottolineare irosamente, a redarguire con astio ogni incertezza, ogni dimenticanza che facevano Finimola estranea, toscana e goi. Samuele attraversò come un'ombra l'ingresso e i corridoi, in silenzio, con una discrezione e una leggerezza in lui poco consuete. Si chiuse nel suo studio e accese un sigaro. Seduto in poltrona ascoltò dalle pareti i rumori della casa, le voci che si rincorrevano da una stanza all'altra in un'agitazione di ordini e prescrizioni, i colpi secchi degli spazzoloni e quelli fruscianti delle granate contro i battiscopa, gli strofinii rassicuranti di panni da spolvero e stracci per pavimenti. Anche intorno a lui tutto brillava. I dorsi rilegati dei libri, i vetri, gli ottoni, il tagliacarte d'argento, le borchie del microscopio. Alfonso controllò ogni cosa con lo sguardo quando venne a salutarlo. Il grembiulone inamidato la copriva tutta e le guance erano rosse d'emozione e fatica. Samuele non provò a trattenerla. Partecipava dell'agitazione anche lui, benché non volesse darlo a vedere. prese un giornale per distrarsi, poi un libro, sonnecchiò un po' sulla poltrona e il pomeriggio trascorse via così, con i rumori della casa che piano piano andavano placandosi. Al tramonto Samuele si rassettò giacca e cravatta, si lisciò i baffi, uscì dallo studio. Nel soggiorno arioso, dai soffitti alti, i tavoli consueti e quelli di fortuna erano resi uniformi dalle tovaglie di fiandra inamidate, dai piatti allineati in ordine perfetto, dalle posate d'argento lucidissime. Cautamente si affacciò sulla soglia della cucina. Con il grembiule appena meno candido, Alfonsa vigilava sul forno e sulle pentole in bollore. Le serve sistemavano le pietanze nei grandi piatti da portata. Il campanello squillò. Con una piccola apprensione negli occhi, Alfonsa slacciò in fretta il grembiule, lisciò con le mani la gonna e di colpo le venne il dubbio che fosse troppo modesta per l'occasione. Samuele le strinse il braccio per solidarietà. Insieme andarono verso l'ingresso. Pellegrino Pontecorvo entrò carico di doni. Trascurato e corpulento nell'abito scuro, peraltro di ottimo taglio, soddisfatto di sé e dei suoi, con l'onorificenza da cavaliere appuntata al bavero appena appena di sghimbescio. Dietro di lui Giuditta, sua moglie, faticava a farsi visibile, malgrado la sontuosa stola di volpe argentata, i molti fili di perle attorno al collo, uno per ogni figlio o figlia che gli aveva partorito, i diamanti che le brillavano alle orecchie, il fisico che le gravidanze avevano reso opulento. Gli uomini si ritirarono nello studio. Alfonsa accompagnò sua madre a vedere la tavola. Assente il marito, Giuditta recuperava autorità e imponenza. Controllò stoviglie e cibo. Alfonsa, senza accorgersene, si torceva le mani. L'esame risultò positivo. Madre e figlia si sciolsero in un sorriso. Più sicura, Alfonsa le mostrò cassetti e armadi, le dozzine di lenzuola, fasce, camicini, topponcini e fustagnini per il bambino che doveva nascere, e tutto Giuditta approvò. Gli squilli di campanello si susseguirono, uno a ridosso dell'altro. Arrivarono altri sereni e i Pontecorvo più giovani, un collega di Samuele, gli Ascarelli, Colorni e Milano. Samuele ed Alfonsa fecero gli onori di casa, ma più tranquilli, consapevoli di far ben fronte, almeno dal punto di vista organizzativo, al grande onore, quasi un'investitura, che veniva loro fatto. E se sua sorella Ermelinda sfoggiava smalti e rubini, Alfonsa non se ne preoccupò, fiera del bene prezioso che portava in seno. Benché il suo matrimonio fosse tanto più giovane, nella gara non dichiarata sui figli era arrivata prima lei, la minore. Quando Settimio arrivò, solo e in ritardo, i suoi gesti irrequieti, la sua brutta faccia infelice imposero una cesura, un buco di silenzio nelle chiacchiere e nello scalpiccio. In una confusione di mani, Finimola lo aiutò a sbottonarsi, a togliersi il soprabito. Lo sguardo di Giuditta frugava i gesti, con uno spavento timoroso di conferme. Subito Angelo e Samuele affiancarono Settimio, con una prontezza che veniva dall'abitudine. Lo strinsero sotto braccio, uno da un lato e uno dall'altro, e insieme i tre fratelli si mossero verso la sala. Giuditta li seguì con gli occhi, i due sani e l'infermo. A distanza si avviò anche lei, augurandosi fervidamente che i suoi generi non avessero a portarle in casa quella disgrazia. Oh. Era la prima puntata del Gioco dei Regni di Clara Sereni, letto da Monica Piseddu per Ad Alta Voce, che è a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e con Chiara Valerio, e la regia di Riccardo Amorese, da riascoltare come sempre su RaiPlayRadio.it e da ascoltare l'ultimo brano da Astral Weeks di Van Morrison, il nostro album del pomeriggio è Sweet Thing. What a shame.